La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Edo 24, buon 25 aprile, festa della liberazione. Mi auguro che almeno per un secondo, magari più di un secondo, ai più di voi sia passato per la testa in questa giornata il significato profondo di quella che è una delle nostre feste civili fondative, per così dire, della Repubblica. E ci aggiungo che nella mia opinione personale dovrebbe essere una festa civile non ispirata ai ricordi della guerra civile, ma dedicata ovviamente a coloro che si batterono per la libertà e capirono nel ventennio quello fascista che l'autoritarismo, che nel nostro paese ebbe consensi di massa, era comunque un regime da combattere, perché la libertà è il primo valore. Poi che cosa sia diventata una storia repubblicana, dividendo parti politiche e così via, questa giornata lo sapete, ma io credo che nel tempo quello che conta, cioè la difesa del valore della libertà e di coloro che sono caduti per la libertà, sia obbligatoriamente tutto ciò di fondativo che deve restare e unirci. Ecco, questa è la mia opinione da quando sono piccolo. Detto tutto questo, poiché siamo in giorni in cui tra feste comandate e feste civili nel nostro paese, speriamo, il turismo abbondi più per la componente estera che per quella nazionale, visto la parte di reddito disponibile che abbiamo perso in questi anni, e in effetti gli andamenti del turismo continuano a vedere più la parte straniera che torna a vedersi di quella italiana, parliamo di un tema che abbraccia insieme tante questioni, perché è un tema che riguarda uno dei fondamentali poli con cui attiriamo visitatori da tutto il mondo, visto che parliamo di Venezia e della sua laguna. Non è un caso che l'aeroporto di Venezia sia diventato quello che è più cresciuto per traffico intercontinentale, sta subito dopo da questo punto di vista, ma con un enorme tasso di crescita molto maggiore di quelli di Fiumicino e Malpensa, che è rimasto flat, piatto in questi anni. Ovviamente la ragione è ovvia, perché Venezia è una meraviglia italiana e mondiale, ma sullo sfondo di Venezia, uno sfondo imprescindibile da tutelare, un patrimonio dell'umanità, eccetera, eccetera, eccetera, intorno al quale ci sono molte discussioni aperte, una per tutte, per esempio i limiti da porre alle grandi navi da crociera. Sapete che c'era stata prima una decisione, poi c'è un ripensamento con l'innalzamento dei limiti di tonnellaggio. Anche questa è una questione molto rilevante, perché da una parte ci sono i flussi del turismo crocieristico, dall'altra opinioni divergenti sul fatto che navi di oltre 100.000 tonnellate possano davvero non fare danni passando a poche centinaia di metri da San Marco. C'è chi ritiene che con la tecnologia e la bassa velocità tutto si possa fare, c'è chi è contrario ideologicamente, ma su questo sfondo di problematiche che in un città meraviglia e patrimonio artistico e culturale come Venezia inevitabilmente sono l'ABC di ogni scelta pubblica, perché tutto va calato nella realtà particolare e nell'obbligo di tutela di quel tessuto urbano e del delicato equilibrio idrogeologico. C'è un'altra questione di cui parliamo oggi, un'idea nei confronti della quale secondo me dovrebbero essere considerate irragionevoli le obiezioni, ma ci sono obiezioni anche su questo. E allora abbiamo deciso di parlarne esattamente con chi ne è l'ideatore, il sostenitore, colui che con la sua impresa crede profondamente in questo progetto ed è molto disposto a investirvi per anni nella prospettiva di un ritorno per tutta Venezia e per tutta l'Italia, ma con un'idea di fondo. Questa idea di fondo è quella di trasformare una delle isolette della parte esterna della laguna, stiamo parlando del versante della Giudecca che va verso l'esterno della laguna, questa isoletta, la Sacca di San Biagio, che per moltissimi anni, per decenni, è stata in realtà utilizzata come discarica, e di trasformarla con un profondo investimento in un progetto che si chiama Venetland, una specie di Disneyland ma in chiave molto diversa, con parchi tematici, parchi culturali legati alla storia della Repubblica Serenissima, delle sue tradizioni lagunari, ma della sua proiezione poi in tutto il Mediterraneo e in tutto il mondo con i suoi traffici, e in cui certo c'è anche poi un'idea di fondo che è quella del divertimento e del parco giochi, perché questo imprenditore è l'imprenditore italiano che in tutto il mondo è riuscito a portare l'eccellenza di ciò che la sua impresa produce esattamente in questo settore, cioè quello dei parchi tematici e dei parchi giochi. È qui con noi oggi pomeriggio, il 25 aprile, lo ringrazio perché appunto è anche festa, Alberto Zamperla, che è il presidente della società omonima. E grazie di essere con noi innanzitutto. Buongiorno a tutti. Allora, questa idea dell'isola della Sacca San Biagio, l'isola di San Biagio a Venezia, del parco tematico eccetera eccetera, prima di spiegarci come le è venuta, per chi non ha presente la sua impresa, che cosa ha fatto nel mondo e come è cresciuta in questi anni, ci dà qualche dato perché chi è in ascolto capisca con chi abbiamo a che fare? Beh, siamo tra i maggiori fornitori al mondo, anzi siamo tra i primi al mondo, non c'è parco di divertimento al mondo dove noi non siamo coinvolti. Qualche anno fa, per darle un esempio, Bloomberg vuole rilanciare Brooklyn, che è il quartiere di New York con il più alto tasso di disoccupazione e il più basso reddito, e lancia un progetto. La nostra azienda fa un progetto e vince la gara d'appalto. E da 5 anni gestiamo e ricostruiamo questo in Brooklyn, questo parco d'attrazioni. Tenga presente che anche lì c'erano posizioni, perché a Brooklyn si era realizzato il primo Luna Park agli inizi del Novecento e aveva il suo spirito, lo spirito di Coney Island, e tutti avevano paura, arrivano gli italiani, non capiscono il nostro spirito e ci porteranno via questa poco di storia che noi americani abbiamo. C'è un bellissimo articolo del New York Times che dice "Renewed but preserved". Sì, siamo noi italiani, quando giriamo per il mondo cerchiamo di capire la mentalità, come pensano gli altri, non andiamo lì con arroganza per dire adesso vi insegniamo noi come si fa, ma cerchiamo di capire quali sono le loro esigenze e di lavorare assieme con loro. Questo è il nostro, e questo ha fatto sì che abbiamo lavorato a New York e in Corea del Nord. Mi sembra che le mentalità siano un po' diverse. Abbiamo realizzato i parchi a Baghdad, ne stiamo studiando uno per la città di Astana, dove verrà, che poco c'è di cultura, in Kazakistan stiamo cercando di trovare degli elementi. Per fortuna è passato di là anche Marco Polo, quindi ci salviamo. Esatto, ma la sua azienda quanto è arrivata a fatturare crescendo negli anni? Beh, attualmente, allora, prima di tutto noi non facciamo un bilancio consolidato, cioè le varie unità sono unità a sé stanti, e comunque l'Antonio Zamperla Spa, dove che crea le attrazioni, fatturerà quest'anno sui 65 milioni. E dando lavoro in tutto l'indotto, in realtà quante più o meno persone? Noi ne abbiamo 180 e vi dirò che in questi anni di crisi noi abbiamo aumentato l'occupazione di circa 30 unità all'interno della nostra azienda. Ma c'era una tradizione di famiglia nel campo delle giostre? Esatto. Andiamo indietro di più di un secolo da cui siamo in questo settore. Noi all'inizio partiamo con un bisnonno che si innamorò di una cavallerizza e misero su un circo equestre. Mio nonno poi andò a Parigi e comprò uno dei primi proiettori costruiti dalla Pathé, brevettata dai fratelli Lumière. Quindi diciamo siamo nel mondo dello spettacolo, diciamo, lì siamo considerati tra i pionieri del cinema italiano, quindi siamo sempre stati nel mondo dello spettacolo. E tra l'altro internazionalizzati, sia pure in tempi di globalizzazione diverse, quasi fin dall'inizio. Ecco. Beh, diciamo che il DNA dell'esportazione lo abbiamo sempre avuto. Poi tenga presente, mio padre mi ha mandato negli Stati Uniti ad aprire la filiale che avevo 23 anni, e da allora poi l'abbiamo aperta in Cina, in Filippine, in Russia, in Brasile, negli Emirati Arabi, quindi abbiamo fatto, io ho pensato, la Coca-Cola è in tutto il mondo, bene, ci saranno giostre in tutto il mondo. Allora, questa idea relativa invece a Venezia, a quando data nella sua testa? Allora, deve tenere presente che io ho una passione per la storia, sono affascinato dalla storia di Venezia, di questa città che da sola è riuscita a fronteggiare un impero come quello ottomano. quindi che c'erano gente coraggiosa come Marcantonio Bragadin, gente che allora non avevano paura, faccio la ruota o non faccio la ruota, allora aveva un sacco di coraggio questa città. Non so se lo sa che il Doge quando veniva eletto c'era una commissione che stimava quali erano i suoi beni e poi quando moriva veniva fatta la stima di quanti beni aveva, sì, lo so. E se ne aveva di più venivano lasciati lo Stato. Che esempi! Ecco, è questo che io voglio raccontare. Voglio raccontare come è nata questa grande città, qual è la sua storia, quali sono i suoi elementi importanti. Allora, adesso che abbiamo chiarito quindi il rispetto di questa idea, cioè abbiamo 60 secondi di informazione stradale e poi invece entriamo nei particolari e tentiamo di capire perché c'è chi obietta. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in questo pomeriggio del 25 aprile a parlare di questa idea, di una idea di trasformazione di una isoletta per tanto tempo discarica nella parte verso la parte esterna, verso il mare della Laguna di Venezia, attaccata alla Giudecca, la Sacca di San Biagio, in un parco tematico storico di intrattenimento per turisti. Il progetto Venice, ne lo stiamo facendo con chi ha avuto questa idea e ci investe molto, è disposto a investirci tantissimo per attirare centinaia di migliaia di turisti, perché pensate che a questo progetto nel piano i visitatori previsti sono 400.000 al primo anno fino a 800.000 dal quinto anno in avanti, ed è con noi quindi Alberto Zamperla, che è imprenditore leader del settore mondiale, da italiano ma con grande rispetto per tutte le culture, verso appunto parchi tematici, giostre, intrattenimento e così via, che ci ha spiegato che gli viene da un grande amore per la città e per il rispetto delle sue tradizioni. Detto questo, le autorità locali, quando lei iniziò a esporre il progetto, come l'ha preso la Zamperla? Se sono andato avanti vuol dire che mi avevano dato il consenso. Certo. Risposta secca e chiara. E ora che si tratta di passare, per così dire, alla fase esecutiva, perché voi siete diventati concessionari dell'isola nel frattempo, vero? Esatto. Quindi avete già iniziato a investirci. La taglia dell'investimento necessario, di che proporzioni, di che grandezza è? Si aggira attorno agli 80 milioni. Quindi è una cosa molto impegnativa, per così dire. Costruire Venezia e realizzare una cosa come vogliamo realizzarla noi, dove ci verrà raccontata la laguna, dove ci sarà uno spaccato in verticale di come è la vita all'interno della laguna, che andremo a spiegare alle scolaresche, ai turisti, eccetera. Poi una parte dedicata a come era Venezia quando è stata fondata, quando era la gente che ci abitava, i vari dialetti, l'aramaico, la gente che la frequentava. La gente deve sapere che non è Piazza San Marco come si vede adesso. Esatto. Venezia è iniziata in un altro modo. A parte che il centro di Venezia era Castello, infatti la sede più antica dal punto di vista anche ecclesiale locale era l'isola di Castello, quindi abbastanza decentrata rispetto a San Marco. In questo l'idea nel tempo l'ha vista associarsi con altri o rimane una visione che realizzerete, tranne che per le cooperazioni tecniche, fornitori e così via, in maniera autocentrata, essenzialmente voi? Allora, lei lo saprà che io non sono né un biologo né un professore di storia e quindi ho trovato un grosso supporto nell'Università Ca' Foscari e nel suo rettore, il quale intelligentemente ha pensato: se io ai miei studenti faccio studiare queste cose, devo anche trovare degli sbocchi per loro. E noi oltretutto potremmo essere anche uno sbocco per quelli che hanno studiato storia, che la possono raccontare, per quelli che hanno imparato la biologia e possono esprimerla. Quindi, oltretutto, noi abbiamo sedi in parecchie parti del mondo, a Ca' Foscari anche l'Università di Lingue. Quale miglior partner potevano avere di un'azienda che può far fare esperienza agli studenti e poi creare anche dei posti di lavoro? Mi sembra la manovra di Carraro molto intelligente. No. Allora, del progetto fanno parte cose che servono appunto con le tecnologie up to date, moderne, a toccare e a vivere pezzi della storia di Venezia. È prevista una ricostruzione sull'acqua della battaglia di Lepanto, quindi 1571. Ci sono sei maxi schermi a 4D in cui proiettare la storia di Venezia. Quindi, insomma, è un progetto molto dettagliato. Però i cittadini, i residenti, anzi, della Giudecca, hanno già bocciato in assemblea la proposta. Se lo aspettava, come mai? Quali sono le ragioni della diffidenza? Ma in genere l'opposizione che noi abbiamo dicono Venezia non ha bisogno di più visitatori e posso dar ragione. Se io vado a Venezia e vado dal Ponte di Rialto fino a Piazza San Marco e percorro le calli centrali dove ci sono gente con lo zaino sulla spalla che girandosi te lo sbattono in faccia, mi potrei sentire, ma cosa ci fa ancora più gente? Ma perché anche quelli d'Italia non hanno pensato, troviamo delle alternative, insegniamo ai turisti a visitare delle altre cose. Esempio, noi quando parleremo della battaglia di Lepanto, parleremo delle navi veneziane, parleremo del museo e diremo, vuoi interessartene? Ti piace, vuoi saperne di più? C'è un bellissimo museo navale. Vuoi sapere dove venivano costruite queste navi? C'è l'arsenale. Cioè noi vogliamo diventare un amplificatore per altre aree della città. Abbiamo già degli accordi con una cooperativa locale, il quale sarebbe disposto a organizzare gite in laguna per poi, dopo che ti sei interessato e hai capito come funziona l'ecosistema della laguna, la puoi andare a visitare. Noi non vogliamo portare la gente in Piazza San Marco, noi vogliamo che vadano a conoscere Venezia e quindi a distribuire questo turismo in tante altre parti. Quindi lei dice che i residenti della Giudecca hanno paura che l'afflusso sia troppo elevato e li disturbi, in parole povere. Loro dicono questo. Allora, io le Però faccio mi sembra che la un'obiezione. città sia morta. Ormai quali sono gli abitanti? Andiamo a dare un'analisi Ah no, questo è notissimo che in realtà i residenti sono pochissimi. di No, no, quello sì. che sta succedendo. Però capisco anche le difficoltà che uno dice, ma come? Ho già troppa gente in lungo queste calli, però allora il problema è spostiamoli, troviamoli, diamogli un significato per andare da qualche altra parte. Allora, guardi, io adesso le faccio un'obiezione di altro tipo. Da molti anni, lei lo saprà, visto che le vostre macchine e i vostri progetti sono tecnologicamente molto avanzati, noi potremmo, in un'area come quella che attira insieme agli Uffizi il maggior numero, e a Venezia ovviamente, il maggior numero di milioni di turisti ogni anno, cioè l'area del Foro Romano e Foro Imperiale a Roma, da molti anni esistono non solo delle ricostruzioni in 3D di aree sempre crescenti, nei diversi secoli, del Foro Romano e del Foro Imperiale, ma esistono degli occhiali che possono essere asserviti a un GPS e che quindi, a seconda di dove uno volge lo sguardo, se è nel foro, possono poi proiettare con dei visori i filmati in 3D che diano l'idea a chi è turista nel foro di come fosse l'apparenza e la sostanza delle diverse realizzazioni all'interno dei fori a seconda di dove uno si trovi e dove diriga il proprio cammino nei fori. Quest'idea che noi abbiamo più, io ultimo tra tanti che ne avevamo convinti, abbiamo più volte illustrato ai sindaci di Roma nel tempo, di destra e di sinistra, alle diverse sovrintendenze che hanno la competenza sul Foro Romano e sui fori imperiali. L'idea cioè di fare una grande gara internazionale per unire una grande multinazionale dell'animazione come la Pixar, una delle aziende leader nel campo dei GPS, dei visori e proiettori da naso, per così dire, portatili, e naturalmente con tutte le garanzie del pieno rispetto di questi sviluppi in tre dimensioni, di ciò che sappiamo dalle campagne di ricerca e di scavo nell'ambito dei fori, questa idea che potrebbe moltiplicare non solo il biglietto d'ingresso, ma moltiplicare la capacità attrattiva dei fori, dove chiunque ci sia andato sa che non c'è nessuna proiezione davvero che spieghi di fronte a che cosa ci si ritrovi. C'è un unico plastico che risale ai tempi di Lanciani, quindi dell'Ottocento dal punto di vista archeologico, che sta nel Museo della Civiltà Romana, che sta all'Eur, quindi a distanza di moltissimi chilometri e che ai turisti naturalmente non è proprio dietro l'angolo. Questo progetto a Roma non si è mai realizzato, perché l'idea che le sovrintendenze erano contrarie, ma chi avrebbe dovuto fare, eccetera, eccetera. Io lo trovo incomprensibile. La domanda che le faccio non è che per caso c'è un'obiezione anche di tipo culturale, al di là del flusso dei turisti aggiuntivi, sul fatto che sareste poco rispettosi della storia perché volete anche fare dei soldi, perché è una cosa che nel nostro paese naturalmente c'è sempre come Ma riflesso condizionato. Lei ha sentito che io la mia educazione l'ho avuta negli Stati Uniti d'America. E temo che questo non l'aiuti, per così dire, per certi versi. Comunque, di quel progetto che lei ha descritto, sappia che noi abbiamo già acquistato uno di quei caschi, immagino. E ci stiamo lavorando perché lo troviamo una cosa interessantissima. Le faccio un piccolo esempio. Parigi, il Louvre, penso che sia uno dei più bei musei al mondo. Certo. 5 milioni di visitatori. Profondo rosso, se non viene sovvenzionato dallo Stato francese, è una perdita inimmaginabile. Esatto. A pochi chilometri di là, più in là c'è un parco che si chiama Euro Disney. 13 milioni di visitatori. Prezzo, costo medio per persona per entrare al parco, 100 euro, contro il prezzo del biglietto del Louvre, credo che sia di 8 euro. Sì, sono numeri. La gente non lo capisce una cosa del genere. Lo so, Londra, però. La ruota, di fronte al Palazzo del Parlamento, a Big Ben, 3 milioni e mezzo di visitatori. Senta, la gente, cosa facciamo delle masse? Le eliminiamo? Le eliminiamo, sì, noi facciamo gli elitari radical chic. Non inquinano, esatto. Non ci vado in giro, non sporcano, eccetera. Infatti, questi signori qui li paragono al tribunale di inquisizione, nel loro modo di affrontare i problemi e come è noto, Venezia era nemica del tribunale dell'inquisizione. Non a caso Paolo Sarpi fu accoltellato dai sicari dell'inquisizione proprio nei vicoli di Venezia. Senta, quanto tempo vi date per realizzare il progetto? Noi fino a che mi ci diverto, fino a che mi piace. No, come? Fino a che mi ci diverto vuol dire che se la stancano la smette, non deve smettere. Allora, io non ho bisogno di farlo. Ah, questo è ancora meglio o ancora peggio, non lo so. Non ho bisogno. A New York vengo trattato bene, vengo onorato, vengo per quello che faccio, faccio anche i soldi. Ma chi me lo fa fare? Capisce? Chiarissimo. Le prospettive ce le ho. Io spero richieste in giro per il mondo di realizzare. Io spero di rifare una trasmissione entro 6 mesi, un anno, per testimoniare l'avanzamento dei lavori. E per chi ci ascolta dal Veneto, da Venezia, per favore pensateci bene prima di dire a Zamperla no e a tutto il progetto che ci sta dietro. L'Italia ha bisogno di questo, di rispetto ma anche di modernità, per mettere a reddito un patrimonio che lo Stato fa solo decadere. Buon 25 aprile, grazie Zamperla, continuate con Radio 24 e appuntamento a lunedì. We'll be right back.